Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sarebbe stato un appuntamento allegro questo da Vinitaly, qui nello stand di Radio 24 a Verona, ospiti Confagricoltura, con il presidente Campedelli a guidare la delegazione del Chievo, la squadra veronese che ieri di fatto ha chiuso il campionato. Niente di tutto questo, non avrebbe alcun senso oggi mettersi a ciarlare di rigori dati o non dati, di risultati, di prestazioni. Non sappiamo ancora fino in fondo che fine ha fatto un pezzo d'Italia che abbiamo tutti nel cuore, e questo sinceramente rende del tutto inutile, ripeto, del tutto renderebbe grottesco le consuete telefonate, gli andirivieni, ripeto, sulle consueti del lunedì. Giusto qualche minuto, un po' per riassumere quanto accaduto ieri per sommi capi e un po' per dar modo anche ai colleghi di rifiatare, i colleghi della redazione che sono impegnati da stamane nel racconto della tragedia e lo saranno, temo, per tante altre ore, se non giorni. Ora, i protagonisti della domenica calcistica sono stati due. Il primo è un valdostano che compirà 30 anni proprio domenica prossima, il giorno di Pasqua, pensate. Si chiama Pélissier, è cresciuto nelle giovanili del Torino, non aveva mai segnato una tripletta in Serie A, l'ha fatto ieri sul campo della Juventus. E quei tre gol hanno praticamente consegnato all'Inter l'ennesimo scudetto. Tre gol in cui grandi sono i meriti di Pélissier, non meno grandi, soprattutto sugli ultimi due, sono i demeriti di una difesa della Juventus che si è consegnata praticamente a questo velocissimo attaccante, ripeto, valdostano d'origine, granata di adozione, e poi una colonna del Chievo in tutte queste stagioni. L'altro protagonista si chiama Federico Macheda, è un romano de Roma di 17 anni che Alex, cresciuto nella Lazio, che Alex Ferguson, perso, dopo averlo strappato nell'estate del 2007 alle giovanili della Lazio, ha lanciato ieri nella mischia a pochi minuti dalla fine, quando il risultato contro l'Aston Villa non c'era verso di schiodarlo. L'ha schiodato al 93esimo questo ragazzo, Federico Macheda, con una girata bellissima d'autore da grande attaccante di razza, e pensate, era il suo esordio assoluto con la maglia del Manchester United, nello stadio del Manchester United, e ha dato non ancora il titolo ai Red Devils, ma insomma ci è andato molto vicino. Quindi Pélissier e Macheda lo conosceremo vocalmente tra qualche tempo. Adesso sentiamo un breve racconto della grande giornata di ieri di Pélissier. Una giornata fantastica, potevamo vincere, so che loro sono una grande squadra, sono riusciti a rimontare due volte, poi il Chievo ci crede, vogliamo salvarci, quindi per fortuna è arrivato il pareggio. È fantastico, intanto far gol a Juve è strepitoso, uno dei portieri più forti al mondo, è bello, tripletta, avevo mai fatto tripletta, quindi penso sia una giornata fantastica. Siamo riusciti a pareggiare in extremis, tutto oggi è una giornata splendida che penso che ricorderò per tanto tempo. E oggi invece, come sapete, è una giornata drammatica, una delle più brutte giornate dell'Italia del dopoguerra, per colpa di nessuno, per colpa soltanto di quello che è successo stanotte in Abruzzo. Dicevo dei motivi di allegria che avremmo avuto qua oggi con Campedelli, forse con lo stesso Pélissier, con altri protagonisti del Chievo, visto che siamo a Vinitaly e di vino qua si sta parlando e non solo parlando. Con una degustazione di Arno, per esempio. Arno è il vino di Trulli, è quarto ieri mi pare, no? nel Gran Premio che ha visto l'ennesimo disastro della Ferrari, un vino che lui coltiva proprio in Abruzzo sulle colline pescaresi, un bianco e un rosso, sarebbe stato, non so se qua direttamente il pilota o se magari si sarebbe fatto rappresentare dal vino, ma insomma, dicevo, sarebbe stata una giornata allegra che non può essere così. La classifica, 9 punti di vantaggio su 24 ancora in palio. L'Inter ha praticamente blindato il suo ennesimo scudetto con una prestazione diciamo pure mediocre ieri sera a Udine, risolta, tant'è vero che è stata risolta da un Caracchini in piena regola della difesa dell'Udinese, ma insomma, tra il Caracchini di Isla e della difesa dell'Udinese e i Caracchini di Melberg, Chiellini, e sul secondo gol direi anche una coproduzione di Buffon, sono state le difese ieri, queste due difese bianconere, a risolvere la questione del campionato. Ripeto, 9 punti su 24 disponibili non lasciano più margine alla Juventus, a dispetto, secondo me, del confronto diretto. Sentiamo Mourinho. In questo momento sentiamo che lo scudetto è più vicino, ovviamente oggi l'obiettivo di gara era di uscire di qua con le stesse 7 punti che avevamo prima di questa di questa giornata. Alla partenza più difficile per noi giocare a Udine che per loro giocare in casa con Kiev. Spero che Kiev ha fatto una grande partita, ha pareggiato e noi oggi si può dire con un po' di fortuna perché è un autogol, chissà è un rigore prima dell'autogol, però è sempre una situazione un po' fortunata per noi. Però abbiamo giocato con la tranquillità di chi ha 6 punti di vantaggio, sapevamo di giocare per 2 risultati, non abbiamo mai perso la testa e l'equilibrio anche nei momenti difficili del primo tempo, perché in primo tempo loro meglio di noi. E dopo il secondo tempo più equilibrio, più controllo del gioco, mi sento un fortunato con i cambi di Figo e di Patrick, perché loro con la sua esperienza, il ritmo di gioco più adattato alle nostre caratteristiche, più controllo del possesso palla, mi sembra che la squadra ha giocato bene. Beh, mi sembra anche che in questo caso ieri sera Mourinho aveva parlato come un libro stampato. Effettivamente ha riconosciuto la fortuna, la componente di fortuna in questa vittoria, ha ricordato i 2 episodi decisivi che l'hanno anche propiziata, e non è stato tenero anche poi in altre dichiarazioni con i 2 ragazzi che ultimamente avevano fatto così bene nell'Inter, con Santone e Balotelli invece li ha bocciati, come d'altra parte la doppia sostituzione di Vieira e di con Vieira e con Figo ha dimostrato. Ancora un capitolo almeno, anche se sarebbero 2 quelli da trattare, la retrocessione con lo sfortunato debutto, sfortunato, ma insomma non è difficile avere fortuna con una squadra così, di Camolese, l'ennesimo ritorno alla guida del Torino, con la conferma invece del Genoa di Gasperini al quarto posto, in una situazione difficile ieri senza Milita e con Thiago Motta a metà che invece è stato decisivo. Sentiamo ancora Gasperini. Una vittoria importante, ottenuta anche molto bene qui a Reggio, che era comunque una squadra che era un po' l'ultima spiaggia, era stata presentata così questa partita, invece abbiamo giocato con ottima personalità e abbiamo faticato un po' a realizzare, abbiamo avuto parecchie opportunità, sembra che non riuscissimo mai a sbloccare la partita, poi però è andata bene. Thiago Motta ieri non doveva neanche partire perché aveva fatto un provino venerdì negativo anche ieri, poi abbiamo deciso insomma che ci seguisse lo stesso, poco prima della gara ha riprovato in campo, visto che le cose andavano meglio, e abbiamo deciso di portarlo in panchina, ma poi dopo è entrato, fatto gol, a volte anche un pizzico di fortuna ci vuole. Intanto c'è questa vittoria importante di oggi, perché era una trasferta comunque a rischio, proprio per la situazione della regina, e invece ne siamo usciti molto bene. Adesso avremo una settimana per preparare questa gara, abbiamo una serie di partite molto molto importanti dove insomma speriamo di continuare così. Molto molto importanti, per esempio Genoa-Juve fin da sabato, vigilia di Pasqua serale, certamente depotenziata dai risultati di ieri. Finiamo qui oggi, ripeto, non avrebbe molto senso continuare al di là di questa presenza da Vinitaly, dallo stand di Confagricoltura. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a Elena Ligios che ha collaborato all'organizzazione insieme a Davide Cioccia. Vi lascio prima agli aggiornamenti dal traffico e poi alla ripresa dello speciale. Buon pomeriggio.